24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra, bentrovati a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. In primo piano le tensioni al vertice di Bruxelles intorno al bilancio dell'Unione, poi la Grecia con le trattative in vista della riunione di lunedì, infine un focus sui presidi, quelli italiani i più vecchi del continente. In apertura dunque andiamo a Bruxelles, come spesso avviene ai vertici europei, un bilaterale tra il presidente francese François Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel precede l'inizio del Consiglio europeo a Bruxelles dedicato alla difficile approvazione del bilancio pluriennale dell'Unione. Pesano infatti i veti dei vari paesi, compreso quello della Gran Bretagna, che mira a conservare gli sconti ottenuti negli anni Ottanta. È inaccettabile, tuona il presidente del Parlamento, e per la cancelliera tedesca Angela Merkel forse servirà un altro vertice. È iniziata con una lunga serie di incontri bilaterali, il vertice brussellese è tutto dedicato al bilancio comunitario per i prossimi 7 anni. In tempi di crisi economica l'obiettivo di molti paesi è di ridurre il quadro finanziario rispetto al pacchetto precedente. L'Italia è un paese contributore, vuole limitare i danni ed evitare che ci sia un aumento del suo saldo netto, attualmente di circa 5 miliardi di euro all'anno. Germania e Gran Bretagna vogliono soprattutto ridurre i costi, mentre la Francia è impegnata a difendere i contributi che riceve dalla politica agricola comune. Entrando nella sede del Consiglio europeo, il primo ministro Mario Monti ha affermato che non è pronto ad accettare una soluzione inaccettabile. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Questi i nodi intorno al bilancio, il commento di Adriana Cerretelli. Dal 2000 siamo diventati anche contribuenti netti, il che significa che ogni anno versiamo al bilancio qualcosa come 5 miliardi al bilancio europeo. Se si taglia l'ammontare totale del bilancio pluriennale, i capitoli che soffrono sono quelli dell'agricoltura, in particolare degli aiuti diretti e i fondi strutturali. E al tempo stesso le riforme dei criteri per la distribuzione dei fondi strutturali tendono a rivedere sia i criteri della prosperità relativa dei paesi, sia quelli della disoccupazione. Il risultato è che vengono favoriti i paesi assolutamente più poveri, cioè quelli dell'est, e le nostre regioni, soprattutto quelle in transizione tipo Abruzzo, Molise eccetera, rischiano di essere tagliati fuori. Serie di incontri bilaterali a Bruxelles anche per il premier italiano Mario Monti, che ha visto il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, poi il presidente francese, la cancelliera tedesca, il premier spagnolo e quello portoghese. L'Italia fino ad ora è stata penalizzata, attacca Monti arrivando nella capitale belga. È un negoziato molto serio e difficile, sono in gioco i prossimi 7 anni dell'Unione europea, ci sono 3 obiettivi essenziali che sono l'equità, la solidarietà e l'uso efficiente delle risorse. L'Italia finora è stata sproporzionatamente penalizzata e per noi non è così importante come per altri un limite al totale del bilancio, però per noi è assolutamente essenziale che l'Italia ottenga risultati migliori di quelli di oggi e migliori di quelli prospettati nelle bozze negoziali per quanto riguarda i fondi per la coesione, per quanto riguarda i fondi per l'agricoltura e anche per quanto riguarda i meccanismi di ripartizione. E sull'Europa pende intanto ancora la spada di Damocle della Grecia. Dopo il nulla di fatto delle ultime riunioni dell'Eurogruppo, si guarda ora al vertice di lunedì. Con fiducia e con spirito costruttivo, commenta il commissario europeo Olli Rehn, che dice di non vedere ragioni per cui l'Eurogruppo non possa trovare un'intesa sul pacchetto greco. E per il ministro tedesco delle finanze Wolfgang Schäuble si stanno facendo passi avanti, l'euro, ha assicurato, rimarrà stabile. E vediamo le ricadute di questi vertici sui mercati. Senza il faro di Wall Street, le borse europee salgono in scia al balzo della manifattura cinese, che torna a crescere dopo 13 mesi. In attesa di novità sulla Grecia, l'Eurogruppo decisivo è previsto per lunedì, i listini del vecchio continente, con quelli americani chiusi per il giorno del ringraziamento, ieri hanno chiuso sui massimi, con Milano che è avanzata dell'1,03%. Rialzi all'incirca vicino al punto percentuale anche per Parigi, Francoforte e Londra. A Piazza Affari, che bissa così il rialzo dell'altro ieri, brilla Buzzi Unicem, più 4,7%, grazie ai giudizi positivi di Bernstein, che sottolinea l'esposizione a mercati in crescita come la Germania, e della banca svizzera UBS. Rimbalzano Mediaset, più 4%, ed Exor, più 2,8%. Recupera terreno anche Enel Green Power, più 2%, che si è aggiudicata una gara per costruire un impianto eolico da 102 MW in Messico. Positiva anche Fiat Industrial, più 1,5%, dopo il via libera dei consiglieri indipendenti di CNH alla fusione. In coda al listino Autogrill, meno 0,2%, e le utility a partire da Snam, più 0,1%. Sul resto di Piazza Affari balza ancora Antichi Pellettieri, più 45%, che in due giorni, dopo l'accordo sul debito con le banche, ha raddoppiato le quotazioni. Ciao Condina da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca. Ryanair bocciata in tribunale. Il quesito era di quelli sensibili. Quale corte si deve pronunciare se la compagnia, come in questo caso, ha sede in Irlanda mentre i dipendenti si trovano in Italia? Una sentenza della Corte d'Appello di Roma ha stabilito che devono essere giudici italiani ad occuparsi delle controversie sindacali. È un verdetto storico perché riconosce che un'azienda che opera qui è soggetta alle leggi di questo paese, commenta Franco Persi, coordinatore del trasporto aereo della FIT CISL, che ha vinto il ricorso sulla compagnia low cost. Sempre più critici verso l'Unione Europea. La crisi economica rafforza i sentimenti anti-europeisti. Ora lo conferma anche un sondaggio ISPO sul rapporto tra italiani ed Europa, un dato che il vicepresidente della Commissione, Antonio Tajani, commenta così al microfono di Valeria De Rosa. Alcuni partiti, come il Movimento 5 Stelle in Italia, ma anche i Pirati in Germania o altre forze di estrema destra o di estrema sinistra in Grecia, lo stesso è capitato in Finlandia, esprimono un forte malcontento per la situazione attuale. Non credo che questi elettori, quando dicono che sono contro l'Europa, pensino a uscire sul serio dalla Unione Europea. Se l'Europa, come sta facendo, invece, accanto ai sacrifici, disegna anche e agisce per una strategia a favore della crescita, cioè per la costruzione di posti di lavoro, allora sì che l'Europa non è più matrigna. Un caso specifico, quello della Grecia, però al di là della crisi che sta attraversando Atene, secondo lei come sta influendo sul senso di appartenenza all'Unione Europea e come Bruxelles sta agendo per arginare eventuali spinte centrifughe? La Grecia è l'Europa, la Grecia è la nostra storia. Io non posso pensare ad un'Europa senza Grecia. Abbiamo chiesto ai greci di fare molti sacrifici, li stanno facendo, il governo Samaras ha dato delle risposte concrete, ora si tratta di fare in modo che la Grecia possa essere aiutata e una volta aiutata la Grecia poi deve avere un comportamento virtuoso, però non credo che ci sia un sentimento anti-greco. I presidi italiani sono i più vecchi d'Europa, l'85% ha più di 50 anni contro una media europea del 60%, uno su tre ha addirittura più di 60 anni. Sistemi europei a confronto nel convegno a Roma organizzato dall'Associazione 3L e dalla Fondazione per la Scuola. Molte le differenze dagli altri paesi europei sul tema dei dirigenti scolastici. Maria Piera Ceci ne ha parlato con Attilio Oliva, presidente della Fondazione 3L. La prima è che ovunque c'è un profilo professionale scritto di cosa si intende per preside, quali sono le sue funzioni, i suoi poteri e i suoi ruoli. Secondo punto, da noi non c'è valutazione dei presidi sul loro operato lungo il cammino. Altrove i presidi sono valutati periodicamente da ispettori o altri sistemi di valutazione esterni alla scuola. Il terzo punto è che nella selezione da noi ci sono principalmente prove su norme, leggi e anche su conoscenze astratte e invece all'estero fanno, prima di nominarli presidi,